Buongiorno Palestina. Questo è il nome di una trasmissione da Radio Wombat da oggi e per ogni mercoledì dalle 19 per mezz'ora. Si dirà quello che sulla Palestina non vogliono che si sappia. Si tratterà di notizie, dati, interviste, rassegne stampa, recensioni, eventi, storia, ma insomma sarà qualcosa di ben diverso dalle informazioni asservite che voi vedete dai maggiori organi di informazione, televisioni, quotidiani, perché questi si attengono alle veline che gli vengono passate dall'ambasciata israeliana, tanto per dire le cose come stanno. Dunque, questa è una trasmissione a cura di attivisti, di associazioni che conoscono bene la situazione di occupazione militare israeliana della Palestina. Quindi la trasmissione fa riferimento a fonti palestinesi, a fonti israeliane, a fonti internazionali e soprattutto fa riferimento a chi è sul luogo o a chi vi è stato di recente, e quindi faremo interviste a persone che tornano dalla Palestina e raccontano che cosa gli sta succedendo. Oggi abbiamo in studio Marisa di Astopace Palestina. Allora, Marisa, su che cosa hai lavorato? Di che cosa ci vuoi parlare? Sì, buongiorno. Volevo parlare di una notizia che ho trovato del 17 di maggio, che riguarda Gaza, quella striscia di terra di 360 metri quadrati con una popolazione di circa 2 milioni di abitanti, teatro da 12 anni degli effetti più devastanti dell'occupazione israeliana. È uscita appunto venerdì scorso da parte del Ministero della Salute palestinese nella striscia di Gaza un report sugli attacchi, ti ricordi, no? La grande marcia di ritorno fatta dal 30 marzo 2018 al 14 maggio 2019. Ecco, questo report è interessante perché ci dice, al di là di quello che abbiamo sentito, qual è veramente stato il livello del massacro. Ti dico i dati. 305 palestinesi, tra cui 59 minori, 10 donne e un anziano, sono stati uccisi dalle forze militari israeliane. Altri 17.335 hanno subito ferite varie. 564 palestinesi sono stati gravemente feriti, 7.345 sono stati moderatamente feriti, 9.426 hanno riportato lievi ferite con munizioni vere o proiettili di acciaio rivestiti di gomma. Dei 17.335 palestinesi feriti, circa 1.685 hanno riportato ferite alla testa e al collo, 122 agli arti inferiori, che poi sono stati amputati, 14 agli arti superiori. Tra i feriti c'erano anche 3.665 minori, 1.168 donne e 104 anziani. Il Ministero ha anche confermato che sono stati uccisi 3 paramedici palestinesi e rimasti feriti 680 membri dell'equipaggio medico. Quindi, allora, io ti dico. Quindi un massacro in grande stile. Allora, la cosa è di questi dati, quello che mi impressiona di più è quello delle amputazioni. Perché queste amputazioni, che io sappia, derivano dall'uso di proiettili vietati dalle convenzioni internazionali, cioè queste pallottole dum-dum o a farfalla, come vengono chiamate, che quando colpiscono esplodono e dobbiamo dire che i cecchini israeliani mirano soprattutto alle gambe. E quindi abbiamo oggi nella striscia di Gaza una popolazione in cui gli amputati sono frequentissimi, quasi in ogni famiglia. Quindi. È vero. E sai cosa ho pensato quando per la prima volta ho letto questo resoconto? Che questo elenco abbastanza asettico di soli numeri, questa oggettivazione dell'evento, non ci deve però far scordare una cosa. Che dietro ogni numero c'è una vita, una persona con un nome e un cognome, con la sua storia, i suoi sogni, il suo futuro, i desideri, aspettative, relazioni, parentele e affetti, che potrebbero veramente, sicuramente, avere un coinvolgimento da parte nostra molto emotivo, che i numeri sembrano evitare. Ma questa mi confermi, penso, Claudio, è una consuetudine, cioè è quello che fanno puntualmente tutti i giornali nel dare notizie che riguardano la Palestina. Ecco, quando vengono giornali, date. Ecco, hai parlato della fonte palestinese. E la fonte italiana invece qual è? Ecco, i giornali che dicono? Sì, guarda, cogli proprio una cosa che è stata appunto la conseguenza del mio pensiero, nel senso che questi avvenimenti successi a Gaza nei primi giorni, nella prima decade di maggio, hanno fatto rimbalzare determinate notizie nei nostri quotidiani e alle televisioni. E quindi è interessante, e in questo senso cito un articolo di Patrizia Cecconi intitolato "Giornalismo acquiescente e Ramadan di sangue in Palestina", perché coglie proprio quello che stavo appunto dicendo. Patrizia Cecconi, che è presidente dell'associazione Oltre il Mare, esaminando alcuni organi di informazione accreditabili come democratici, afferma che ancora una volta Gaza non è solo sotto le bombe israeliane, ma anche sotto un bombardamento mediatico che ne oscura le ragioni. Adesso vediamo alcuni esempi di questa carrellata di media. Allora, La Repubblica, uno dei giornali più autorevoli in Italia, così titolava in quei giorni: Gaza, Hamas lancia centinaia di razzi, morti 3 israeliani, 9 le vittime palestinesi. Si ignora quindi completamente il progresso, lasciando intendere che ci sia una criminale follia in Hamas. E come scritto poi nel corpo dell'articolo, Israele sta solo provando a difendersi. Addirittura, pensa nel titolo, i morti sono tutti dovuti ai razzi di Hamas. Chi scrive è un valletto, molto, molto probabilmente inconsapevole del sionismo, e quindi usa la manipolazione della verità per formare e indirizzare l'opinione pubblica. L'altro giornale, Il Sole 24 Ore, titola: Gaza, centinaia di razzi verso Israele, colpito un ospedale ad Ashkelon. Nell'articolo esplicita che durante i duri combattimenti palestinesi di oggi un razzo sparato da Gaza ha centrato l'ospedale israeliano di Ashkelon, aggiungendo che Israele, da parte sua, ha replicato con raid verso diverse decine di obiettivi di Hamas e della Jihad islamica. Raid delicati e mirati, verrebbe da pensare e da dire, se non ci fossero le foto e video che lasciano senza fiato e senza parole. Un altro è Il Fatto Quotidiano, titola: Medio Oriente, centinaia di razzi ad Hamas contro Israele, mettendola su un piano che ricorda un duello impari in cui una parte, cioè Hamas, lancia un'offensiva ingiustificata al povero Stato ebraico. Quando si parla di Gaza, spesso si sostituisce il nome della regione sotto assedio col nome del partito al potere nella regione, riducendo così Gaza a un dominio di Hamas, contro il quale tutto è concesso in quanto Hamas è stato iscritto nel ruolo delle formazioni terroristiche. È una confusione tra resistenza e terrorismo, ma non è cosa nuova. In Italia questa confusione la facevano anche i nazisti, chiamando banditi partigiani. Poi Il Fatto Quotidiano, seguendo la stessa velina degli altri media, spiega che Israele risponde con raid aerei sulla striscia. Un altro quotidiano che volevo sottoporre all'attenzione è Il Messaggero, che titola: Oltre 200 razzi da Gaza su Israele, nuovi raid di Netanyahu, uccise neonata e donna incinta nella striscia, accuse alla Jihad. Allora, questo articolo, in totale ignoranza del progresso, cioè delle uccisioni, dei bombardamenti israeliani pre-lancio razzi, e dove quelle accuse alla Jihad, dopo la notizia di un'uccisione che emotivamente colpisce perché riguarda una neonata e una donna incinta, lascia però qualche dubbio circa i responsabili dell'infanticidio e dell'omicidio. Non c'è dato sapere, quindi, se la donna incinta fosse una vicina, una passante, una zia o per caso proprio la madre. L'ha capito molto bene però Israele. che utilizzando, diciamo, senza vergogna la menzogna, tramite il più suo democratico quotidiano Ares, ha dichiarato in quei giorni: sono stati uccisi da bombe di Hamas una donna incinta e bambino. Cioè sarebbe stato Hamas ad uccidere la piccola Saba di un anno e sua madre incinta di 6 mesi. Poi sempre il messaggero prosegue dicendo: nuovi venti di guerra che spezzano un periodo di calma seppur precaria. Ora Claudio, c'è da chiedersi se si può chiamare calma ogni aggressione israeliana senza risposta palestinese, oppure se l'articolista del messaggero anche qui proprio non sa che anche in questi giorni Israele ha sequestrato pescherecci rimangiandosi la promessa di allargare l'area della pesca e ha ferito e arrestato gli sventurati pescatori. Non solo, ma anche ha ucciso prima che iniziasse la cosiddetta offensiva da parte, il lancio di razzi da parte di Hamas, aveva nei giorni precedenti aveva ucciso 4 persone in Israele, certo, di Gaza. Ora, è questo, se noi andiamo a vedere questi siti che citavo all'inizio, vediamo che ogni giorno c'è un morto da parte dei palestinesi, ogni giorno, e nessuno ne parla. Se c'è un morto da parte israeliana, allora è uno scandalo, da parte palestinese è la normalità, è la quotidianità. Sì, e vorrei continuare dicendo che Israele 2 giorni fa ha ucciso una ragazzina di 16 anni che sventolava la sua bandiera nella sua terra sotto assedio, che dei ragazzi sono stati ammazzati lungo la linea di confine, al border, quindi, anche 3 giorni fa, mentre a mani nude invocavano la libertà. E sempre 3 giorni fa sono stati ammazzati, uccisi 2 ragazzi e feriti altri 2 perché stavano confezionando, così ha dichiarato Israele, dei palloncini con la coda accesa, considerando come arma il palloncino che tutt'al più può dare fuoco alle stoppie, mentre con i missili loro hanno ucciso 2 appunto di questi ragazzi, come ti dicevo prima, e ferito altri 2. Continuando questa rassegna che ti dicevo prima, la RAI ha ignorato completamente quanto finora si è detto. E per finire vorrei citare RAI News Mondo, che mentre informa di centinaia di razzi lanciati da Gaza su Israele, mostra le terribili devastazioni dei missili israeliani, senza specificare però che quelle devastazioni riguardano Gaza e non Israele. E poi si fa portavoce del messaggio dell'Unione Europea che intima a Gaza stop subito al lancio dei razzi contro Israele. Al prossimo argomento, sentiamo un attimo di musica. Argomento, Marisa, qual è? Sì, un'altra notizia di cui vorrei parlare è riportata dalla rivista internazionale del 15 maggio e riguarda l'università di Ariel, che si trova nei territori occupati da Israele al centro della West Bank. L'articolo che ho trovato interessante è di Catherine Cornet, giornalista e ricercatrice, che intitola Gli accademici italiani che si oppongono all'università di Ariel. Allora, cosa è successo? Gli studiosi italiani che aderiscono all'associazione Sesamo, Sesamo è la società per gli studi del Medio Oriente, hanno inviato una lettera al ministro italiano dell'università e della ricerca Marco Bussetti, chiedendo di non accreditare l'università israeliana di Ariel, costruita appunto su territori palestinesi confiscati illegalmente. Si tratta di una delle prime azioni in Europa, dopo molte proteste nate sia all'interno di Israele che fuori, che sottolinea la problematica della cooperazione scientifica con le istituzioni presenti negli insediamenti legali israeliani in Cisgiordania. La cooperazione col mondo universitario europeo è cruciale, devi sapere, per Israele, e i programmi europei di ricerca rappresentano una delle maggiori fonti di risorse pubbliche per la ricerca israeliana. La lettera inviata dall'associazione Sesamo al ministro italiano non è un appello al boicottaggio, ma vuole ricordare al ministro le posizioni europee in materia di rispetto del diritto internazionale. Sesamo esprime la sua preoccupazione per la cosiddetta legge Ariel University Law, promulgata nel 2018 dal Parlamento israeliano, che estende l'autorità legale dello Stato di Israele, pensa alle istituzioni universitarie edificate al di là della linea verde. Vengono finanziati, finanziate le iniziative culturali e industriali al di là della linea verde, cioè in territorio che non è territorio israeliano, cioè che è territorio palestinese, sì, giusto, cioè in casa d'altri. Sì, però le acquisisce come facenti parte del proprio Stato, le dà l'autorità legale come università site in Israele. La linea verde, dicevo, al di là della linea verde, voglio ricordare qui che cos'è la linea verde. È quella linea di demarcazione stabilita negli accordi d'armistizio arabo-israeliani nel 49 tra Israele e alcuni paesi arabi confinanti, e che è servita come confine de facto, diciamo, dello Stato di Israele dal 49 fino al 67, alla famosa guerra dei sei giorni. Allora, l'Università di Ariel è situata quindi nei territori palestinesi occupati, in violazione aperta del diritto internazionale. È bene qui infatti ricordare che la Quarta Convenzione di Ginevra proibisce il trasferimento della popolazione civile e la costruzione di insediamenti all'interno di territori occupati militarmente. Sappiamo, no, che Israele ha disatteso completamente tutte le direttive e tutte le lettere arrivate da varie associazioni, nonché dall'ONU. L'Università israeliana di Ariel è quindi illegale in quanto è all'interno di un insediamento costruito su questi territori confiscati. E c'è da ricordare che nel 2012 più di 1200 accademici israeliani avevano firmato una petizione che si opponeva all'insediamento di Ariel, considerato, cito, tentativo di reclutare l'Accademia israeliana al servizio dell'occupazione e della campagna di insediamento. E insistevano nel dire questi universitari israeliani che tale decisione non rispondeva e non risponde a un bisogno universitario, ma, cito di nuovo, politico e non rispecchia le necessità degli sviluppi accademici in Israele. Hai toccato due argomenti fino adesso che mi viene in mente che dovremo trattare in modo dettagliato in prossime trasmissioni. Allora, uno è quello della confisca di territorio palestinese che attualmente appartiene ai palestinesi, cioè lo strabordare di Israele al di là della linea verde, cioè dei propri confini. Certo. Questo è uno, e dovremmo trattarlo per bene questo. E l'altro è quello delle libertà interne ad Israele, cioè ne dovremmo parlare di questo, cioè perché in Israele esistono dei residui di democrazia, chiamiamola così. Ecco, dovremmo ragionarci per bene su che cosa rimane, che cosa è stato all'inizio e che cosa soprattutto rischia di essere in futuro. Era una digressione, andiamo avanti. No, comunque volevo confermare quello che stavi dicendo, perché non tutti forse sanno come è stata presa la terra, no? Uno pensa anche in maniera violenta, però è stato un piano ben programmato, pianificato, partendo dal piano D, in cui Israele, con varie leggi e norme, sia militari di altro tipo, ha confiscato, requisito la terra palestinese, emanando leggi unilateralmente, capito? Quindi sì, concordo con te, sarà una cosa interessante da esplicitare. Allora, continuo sempre sull'università di Ariel dicendo che la posizione dell'Italia è altrettanto significativa, perché è il paese d'Europa che conduce il più importante programma di gemellaggio universitario dell'Unione Europea in Israele. È un programma che ha durata biennale con un bilancio di 1,8 milioni di euro. Dunque, la lettera degli studiosi di Sesamo è importante. E come sottolinea uno dei ricercatori italiani firmatari di questa lettera, cito di nuovo, questa inclusione della Ariel University nel novero delle università israeliane è un grande assist per il movimento BDS e per gli appelli al boicottaggio accademico di Israele, visto che mette sullo stesso piano università israeliane storiche con università che corrispondono chiaramente all'agenda dell'estrema destra israeliana. BDS, dicevi? Sì, anche qui, vero? Stai pensando a un altro intervento su questo? No, sì, ma, sì, beh, sì. Certo. No, no, una trasmissione sul BDS, sul movimento BDS dovrà essere fatto. Anche la luce, ti ricordi l'immagine Abu Salama che abbiamo incontrato giorni fa, no? BDS, che... cioè boicottaggio, disinvestimento, e sanzioni, sì. Cioè intervento pacifico, ma forme di lotta che si stanno sviluppando a livello internazionale e che sono pacifiche, ma che vengono anche gravemente criminalizzate, certo, pur essendo del tutto pacifiche. Certo. Cioè, ne parleremo. Sì, sì, anche questo è interessante. E, ascolta, voglio concludere semplicemente citando Martin Kotchny, direttore dell'European Middle East Project, che è un'organizzazione non governativa e una think tank di base, cioè un gruppo di esperti impegnato nell'analisi e nella soluzione di problemi complessi. Specie in campo economico, politico, con sede a Bruxelles. Bene, riferendosi appunto ai programmi Erasmus, che includono Israele, dice: sono altrettanto importanti per i giovani studenti israeliani e non possono in alcun modo riguardare territori considerati illegali dall'Unione Europea, per non parlare, continua, dello squilibrio incredibile tra università di coloni come Ariel e quelle palestinesi che soffrono di mille restrizioni e provano a sopravvivere sotto assedio. أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم. Hai parlato della lettera di Sesamo, ce l'abbiamo, è disponibile questa lettera di Sesamo? Però nello stesso tempo vorrei anche ricordare una cosa, che noi riusciamo a dire per radio un numero limitato di cose, di dare informazioni, di fornire dei dati. I dati e informazioni li trovate su due siti. Uno è il sito di Assopace Palestina, e lo trovate facendo semplicemente da Google Assopace Palestina oppure www.assopace, e l'altro www.amicizia italo-palestinese. Sono due siti dove trovate documentazione, dati e informazioni. Bene, andiamo avanti. Chiedevo a Marisa La lettera di Sesamo è disponibile? Senti, allora, la lettera di Sesamo non ce l'ho, però sono in possesso della lettera che è stata scritta a sostegno e in condivisione all'appello rivolto da Sesamo da SCP. SCP è la Società Civile per la Palestina, che raggruppa 23 sigle di associazioni che si occupano della causa del popolo palestinese, fra cui ci siamo noi, no? Amicizia per Italo-Palestinese e Assopace Palestina. Quindi, sintetizzando questa lettera, appunto andata inviata da SCP, chiede ai governi e all'Unione Europea il non riconoscimento e il non accreditamento dell'Università di Ariel e ai ministri dell'istruzione di tutto il mondo di non accreditare i diplomi dell'Università di Ariel. E poi continua dicendo: non riconoscere e non collaborare con organismi e istituzioni illegali è un precetto fondamentale di diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda gli insediamenti israeliani condannati più volte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come una flagrante violazione del diritto internazionale. Inoltre, secondo la quarta convenzione di Ginevra, gli insediamenti israeliani e il trasferimento di colonie israeliane in territorio occupato possono configurarsi come crimini di guerra. E quindi, come associazione impegnata sul fronte della difesa dei diritti umani, è stata mandata questa lettera a sostegno e a condivisione di quella scritta da Sesamo. La posizione, ecco, in più in questa lettera troviamo, diciamo, un'esortazione. Si chiede che il MIUR non accrediti, quindi il MIUR, il Ministero Pubblica Istruzione e Ricerca, non accrediti e riconosca qualsiasi diploma o qualifica conferita all'Università di Ariel. Inoltre, si chiede che il MIUR ponga fine a tutte le relazioni e gli accordi con il Council of Higher Education israeliano, fino a quando non porrà fine all'accreditamento dell'Università di Ariel. Bene, allora con questo concludiamo questa nostra trasmissione. Mercoledì trasmetteremo ancora alle 19, dalle 19 alle 19:30. E concludiamo questa trasmissione con una canzone che è cantata in lingua araba, ma che viene cantata anche in lingua curda. Vediamo se la riconoscete. قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظل قوقعة حظي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظل واخيط جروحي من نور الشمس نور الشمس نور الشمس شمس شمس شمسك يا وطني تشرق في بدني وتضيء بي Con questo vi salutiamo, ci ritroveremo, speriamo, la settimana prossima, speriamo di fare una trasmissione migliore di questa e di migliorare man mano, questa era la prima. Marisa, saluta anche noi il nostro pubblico. Arrivederci.